Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 14 giugno, questa è la puntata numero 30 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e quella che raccontiamo oggi è una storia che ci parla di violazione dei più elementari diritti umani che avviene dentro la civilissima Europa, in un paese che purtroppo si è già fatto conoscere per altri altrettanto gravi episodi. Parliamo dell'Ungheria, dove da circa un anno è detenuta in isolamento un'attivista tedesca imputata nello stesso processo che ha rinchiuso nelle stesse carceri Ilaria Salis. Maya, questo è il nome dell'attivista, lo scorso 5 giugno ha iniziato lo sciopero della fame. In una lettera ha scritto: non sopporto più le condizioni di detenzione in Ungheria, la mia cella è stata sottoposta a videosorveglianza costante per oltre 6 mesi, per più di 7 mesi mi è stato imposto di indossare le manette ogni volta che uscivo dalla cella, a volte anche all'interno. Continua l'attivista nella lettera: sono sottoposta a perquisizioni intime costanti e mi costringono a spogliarmi completamente. Sono anche in isolamento a lungo termine, per quasi 6 mesi non ho avuto contatti con altri detenuti. Questa privazione del contatto umano è finalizzata a causare danni psicologici e fisici. Per approfondire la vicenda di Maya e fotografare la sistematica violazione dei diritti umani a cui sono sottoposti gli attivisti detenuti nelle carceri ungheresi, parleremo tra poco con una testimone di eccezione che in quelle carceri è stata rinchiusa per oltre un anno. A tra pochissimo. I don't ride. In a Cage, questi erano gli Strokes, bentornate e bentornati. La detenzione dell'attivista Maya, il conseguente inizio dello sciopero della fame in una carcere ungherese, storia purtroppo a noi già conosciuta, insomma sembra reiterarsi un vecchio incubo. Partiremo da questa vicenda per ampliare un po' gli orizzonti del ragionamento e per farlo abbiamo il piacere di ospitare in collegamento Ilaria Salis, insomma dovreste conoscere piuttosto bene, europarlamentare già detenuta nelle carceri ungheresi. Grazie mille Ilaria per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buongiorno a tutti e a tutte. Dunque, io comincerei chiedendoti di fare luce sulla vicenda di Maya, l'attivista che, come dicevamo, si trova in carcere in Ungheria e che lo scorso settimana ha cominciato uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni di detenzione in cui si trova. Che cosa sta succedendo nuovamente sul territorio ungherese? Maya è stata estradata in Ungheria illegalmente dalla Germania, perché appunto è stata estradata in seguito a una decisione di un tribunale di primo grado e quindi è stata presa nella notte dalla sua cella in Germania, è stata incappucciata e portata in elicottero passando per l'Austria in Ungheria. Quando è arrivata l'ordine di sospensione, perché appunto l'avvocato di Maya aveva presentato ricorso contro questa prima decisione, il Maya ormai si trovava in territorio ungherese e quindi si trovava in custodia della polizia ungherese e non è mai più stata riconsegnata, cioè lì è rimasta da ormai un anno, perché questa estradizione illegale di Maya risale al 28 giugno 2024. Se non che poi il Tribunale Supremo, quindi la Corte Costituzionale Federale Tedesca, si è espressa giudicando illegittima e illegale questa estradizione. Nonostante questo, Maya non è mai stata riportata in Germania e oltre a delle condizioni detentive terribili, che appunto io ben anche ricordo, per Maya sono ancora più terribili, perché Maya è una persona non binaria che si trova quindi detenuta in un paese che calpesta sistematicamente i diritti delle persone LGBTQ. Per questo, ad esempio, è tenuta in isolamento da ormai un anno. Inoltre Maya si trova anche sottoposta a un processo ingiusto, un processo dove praticamente il giudice ha già scritto, sa già come andrà a finire, e questa sentenza è stata scritta appunto prima ancora che si svolgesse il processo dal governo, perché si tratta di un processo che è soggetto a fortissime pressioni politiche da parte del governo. Sappiamo che in Ungheria ci sono proprio dei vizi, delle problematiche che riguardano proprio l'indipendenza della magistratura, e le dichiarazioni da esponenti governativi sono proprio delle sentenze di condanna, invocano a delle pene esemplari per una persona che adesso è Maya, ma in passato appunto potevo essere io e in futuro forse tornerò ad essere io. Invoca delle pene esemplari, definendo appunto gli imputati come colpevoli, come dei terroristi, come dei criminali, ecco, prima ancora che si sia svolto il processo. Per tutte queste questioni, quindi condizioni detentive, processo ingiusto, estradizione illegale, Maya ha intrapreso uno sciopero della fame. Maya aveva anche depositato la settimana scorsa una richiesta di andare agli arresti domiciliari e il giudice ha posticipato la risposta al 20 di giugno, quindi non ha risposto. In passato aveva già presentato diverse istanze di questo tipo, erano sempre state tutte respinte, e quindi Maya ha intrapreso questo sciopero per gettare luce sulla sua condizione, per porre l'attenzione sulla condizione in cui si trova appunto a livello detentivo, ma anche e soprattutto appunto a livello processuale, perché diciamo, i reati che vengono contestati a me, ma come anche a Maya, sono dei reati che prevedono delle pene assolutamente sproporzionate, delle pene fino a 24 anni di carcere, appunto in un paese dove non ci sono assolutamente delle garanzie, no, di un processo equo. Maya quindi si trova in sciopero della fame da più di una settimana. Proprio giovedì di questa settimana aveva chiesto che l'udienza venisse ricalendarizzata, per appunto per una debolezza, insomma, per delle problematiche problematiche di salute legate al fatto che non assume cibo solido da diversi giorni. Il giudice addirittura è arrivato a mettere in dubbio la verità dello sciopero della fame, non riconosce neanche le verità più evidenti, e anche il carcere ha fatto una relazione in cui sosteneva appunto che non è vero che Maia sarebbe in sciopero della fame. Cioè addirittura ci troviamo proprio in un luogo dove le autorità non hanno proprio nessun tipo di problema, cioè a negare l'evidenza, a negare cose reali, allo stesso modo appunto con cui costruiscono delle accuse assolutamente fittizie e campate per aria. Sì, alcuni punti del prossimo argomento che vorrei affrontare con te li hai già menzionati anche adesso in chiusura del tuo intervento precedente. C'è una questione, diciamo, piuttosto nota, e a te più nota che agli altri, insomma, rispetto allo stato della repressione del dissenso e delle condizioni detentive in Ungheria. Ne hai già fatto cenno, come dicevamo, a qualche aspetto. Ti chiederei di aiutarci un po' ad approfondire questo tema e anche di aiutarci a capire se quello ungherese può essere considerato un caso isolato o particolarmente grave in Unione Europea, o se ci sono, insomma, altri punti di attenzione che è bene o sarebbe bene non ignorare. La situazione in Ungheria cioè il deterioramento della democrazia in atto in Ungheria è estremamente grave. Ed è stato portato avanti, si è arrivati a questo punto grazie al lavoro scientifico che Orban ha portato avanti in ormai 15 anni di governo ininterrotto, per cui ha proprio introdotto man mano delle riforme, per cui è arrivato poi a smantellare lo Stato di diritto ormai anche sulla carta, e quindi questo ovviamente lo si vede nella dipendenza della magistratura dall'esecutivo, lo si vede nella repressione anche della società civile, delle ONG, negli attacchi sempre più feroci alla libertà di stampa, di espressione, nel fatto che recentemente è stato vietato il Pride, così anche gli antifascisti non sono benvenuti, mentre invece si utilizza senza problemi due pesi e due misure, perché i raduni di neonazisti sono comunque tollerati. Ci sono state anche proprio delle disparità di trattamento estremamente evidenti, nel senso che appunto una persona come me, che sono appunto stata arrestata mentre ero a bordo di un taxi, quindi è accusata arbitrariamente di aggressioni avvenute nei giorni precedenti, ecco, io ho dovuto fare ad esempio 15 mesi di custodia cautelare, e che appunto sarebbero andati avanti, o sarei ancora in carcere se non fossi stata eletta al Parlamento europeo. Mentre invece siamo a conoscenza di situazioni in cui erano neonazisti che aggredivano persone, che aggredivano antifascisti durante la giornata dell'onore, ecco, e sappiamo ci sono anche ormai delle sentenze definitive per cui queste persone non hanno fatto un giorno di carcere, sono state condannate magari a un anno con la pena sospesa, quindi non sono mai dovuti entrare in carcere, oppure a pene pecuniarie, quindi ecco, cioè effettivamente c'è proprio un utilizzo di due pesi e due misure, con un'evidente strumentalizzazione della giustizia per delle finalità politiche, cioè per finalità che poi sono sostanzialmente di propaganda interna, per cui Orban dice difendiamo l'Ungheria dai migranti, difendiamo l'Ungheria dagli antifascisti stranieri. Contro l'Ungheria comunque è stata aperta al Parlamento una procedura per violazione dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, che è una procedura che si attiva nel caso in cui ci siano dei seri dubbi sul rispetto dei principi basilari dello Stato di diritto. Questa procedura in precedenza era stata aperta solo per la Polonia. Però, per esempio, stando in Italia, purtroppo vedo con grande amarezza e anche con grande preoccupazione che, ad esempio, il governo Meloni, insomma, guarda all'Ungheria di Orban come un modello virtuoso anziché come qualcosa da evitare. L'abbiamo visto appunto sia ad esempio attraverso il decreto sicurezza, che è un decreto classista e oltre che liberticida, ma lo si vede anche in altre riforme strutturali che sta provando a mettere in atto, come la riforma del premierato, la riforma della giustizia. Anche queste sono delle riforme che possono veramente mettere in serio pericolo appunto lo Stato di diritto anche in Italia. Quindi questa deriva, purtroppo, ecco, il governo italiano anche rischia di trascinare l'Italia anche in questa deriva sovranista, in questa deriva autoritaria. Ilaria, a questo punto ti chiederei, ancora una volta collegandomi ad alcune delle cose che hai detto poco fa, rispetto anche alle vicende che coinvolgono te e la tua vita, in questo momento è in corso, insomma, si attende la pronuncia del Parlamento europeo, di cui sei membro peraltro, rispetto alla richiesta ungherese di revoca della tua immunità, di portare avanti diciamo, il procedimento nei tuoi confronti che c'è in Ungheria. Ti chiedo di illustrarci lo stato dell'arte e di aiutarci a capire, insomma, quali sono i contorni della vicenda, i risvolti politici ed eventualmente quali scenari si potrebbero aprire, visto le premesse. L'Ungheria, vabbè, ha avanzato mesi fa la richiesta di revoca della mia immunità, ovviamente con delle intenzioni che non sono delle intenzioni di fare giustizia, ma sono delle intenzioni di vendetta, perché appunto, come per Maia, ma anche per me o per chiunque, no, si trova da antifascista, da oppositore politico, ecco, processato in Ungheria, non ha diritto a nessuna di quelle che sono le garanzie basilari che normalmente uno dovrebbe avere in un processo che vogliamo definire, ecco, democratico. La procedura sta andando avanti per questa richiesta di revoca e il Parlamento sarà chiamato quindi i miei colleghi saranno chiamati a votare a breve. Probabilmente la procedura si chiuderà prima dell'estate, ci saranno due votazioni consecutive, la prima all'interno della Commissione Affari Giuridici e poi si voterà proprio nell'assemblea plenaria. I scenari che si prospettano, appunto, non sono solo quelli di riprendere un processo ingiusto, ma io ad esempio potrei anche essere nuovamente arrestata. Perché se l'Ungheria emette, decide di, se mi viene revocata l'immunità, l'Ungheria può tranquillamente decidere di emettere un mandato di cattura e appunto i mandati di cattura europei, cioè, tendenzialmente sono validi in tutta Europa, per cui rischierei anche, no, di essere nuovamente arrestata. Ovviamente io spero che i miei colleghi si rendano conto che si tratta di una situazione assolutamente pretestuosa, che si tratta di un processo che ha delle finalità politiche, che si tratta di un processo che non può essere un processo equo e spero che ne tengano conto durante la votazione, perché comunque il Parlamento è un garante della democrazia in Europa. Se adesso, insomma, anche il Parlamento europeo asseconda le richieste di un governo sovranista, del governo di una democrazia illiberale, come Orban stesso la definisce, sarebbe una situazione veramente molto grave, ma non solo per quanto riguarda me, che ovviamente certo ne va del mio futuro, ne va della mia libertà. E quindi ecco, si tratta anche proprio di una scelta che l'Europa si trova a compiere da che parte stare, per cui se stare sì, dalla parte della difesa dei diritti oppure dei regimi autoritari. Ecco, diciamo, l'Unione Europea in questo periodo non ci ha fatto mancare dispiaceri, speriamo che questa volta ci conceda un'eccezione con un sussulto di dignità, se non altro per quanto riguarda il Parlamento europeo. Ilaria, un'ultima domanda, ancora qualche minuto. Questi giorni al Parlamento europeo si è tenuto un incontro, un dibattito sullo stato della repressione dei movimenti sociali all'interno dell'Unione Europea. Tu stessa vi hai partecipato, sulla base di quanto è emerso nel corso dell'iniziativa, insomma, sulla base dei vostri studi e delle vostre analisi, qual è lo stato dell'arte della repressione nel caso dei movimenti sociali in Unione Europea? Insomma, se ancora una volta ci aiuti a fare chiarezza rispetto a quanto accade su questo versante. Dunque, l'evento che abbiamo organizzato era un evento organizzato dalla nostra delegazione italiana insieme alla delegazione basca e alla delegazione irlandese. Quindi praticamente hanno partecipato sia insomma, le compagne e compagni che si sono trovati ad affrontare esperienze di repressione, oppure direttamente, oppure a livello familiare, insomma, erano magari parenti di prigionieri politici, e anche esperti, studiosi di carcere e studiosi di repressione. Ovviamente si tratta di alcune regioni particolari, perché poi ovviamente dipende, no? Anche dagli stati e dipende dai movimenti. È stato un incontro molto, molto stimolante e comunque quello che si è un po' evinto, ecco, un po' da tutti, diciamo, gli interventi, è erano alcuni denominatori comuni che delineano quelle che sono magari le caratteristiche, perché la tematica era proprio l'utilizzo del carcere come strumento di repressione politica e sociale, no? E quindi ci sono un po' delle linee di fondo, dei modus operandi di fondo, diciamo, nel condurre la repressione, una connotazione politica dell'utilizzo della repressione da una parte come minaccia, per cui appunto il ricorso a pene esemplari, a trattamenti eccessivamente duri, proprio per spaventare gli altri, no? Un po' il colpirne uno per educarne 100. Ma sono anche proprio, diciamo, elementi, sono rimasta anche poi sorpresa perché sono anche elementi appunto della repressione politica che io ho rivisto anche nella mia esperienza, nella mia storia. Come anche la volontà di dividere gli imputati, gli indagati l'uno dall'altro per indebolirli, quindi anche proprio il divide et impera, un po' un altro filo comune, insomma, che contraddistingue, insomma, la repressione un po' a diverse latitudini, in diversi, insomma, in contesti anche politici e sociali e statali, anche differenti fra di loro, cercare appunto di estorcere delle confessioni agli imputati, quindi far sì che gli imputati stessi avvalino, no, la ricostruzione dei fatti che viene suggerita dagli inquirenti, e anche la narrazione che viene fatta, per cui, diciamo, spesso oppositori politici che vengono incarcerati vengono dipinti come dei mostri da sbattere in prima pagina. Questo lo vediamo spesso anche nei giornali italiani, insomma, è molto frequente, proprio per spezzare la solidarietà che si può creare invece intorno, e anche proprio il contestare alcune fattispecie di reato, come può essere terrorismo, che in maniera del tutto pretestuosa in realtà serve per spezzare la solidarietà che le persone invece potrebbero provare. No, è stato un incontro molto, molto interessante, insomma, comunque è stato anche molto, molto istruttivo avere anche questi racconti appunto relativi appunto all'Irlanda o ai Paesi Baschi, dalle persone, insomma, che avvocati piuttosto che prigionieri politici stessi o familiari, che insomma ci hanno raccontato appunto cose molto, molto interessanti. Sì, insomma, iniziative di questo tipo ci aiutano anche un po' ad avere una maggiore chiarezza rispetto a quanto accade proprio dentro i confini dei nostri paesi e dell'Unione Europea che attraversiamo. Ilaria, il nostro tempo è terminato. Io ti ringrazio davvero tanto per la disponibilità, insomma, e per averci accompagnato nel tentativo di fare chiarezza in questo quadro che, come spesso accade in questa trasmissione, ha tinte un po' fosche. Grazie mille, Ilaria Salis. Grazie, grazie. Buona giornata a tutte e a tutte. Noi ci risentiamo come di consueto il prossimo sabato. L'emittente e le frequenze le conoscete già, sono quelle di Radio Città Fucico.